Andrássyút al numero 24. Qui siamo nel centro della capitale magiara, Budapest, intorno vetrine di negozi alla moda e nello slargo il grande teatro dell'opera che il 2 gennaio scorso è stato lo sfondo della prima grande protesta popolare nei confronti del governo di Viktor Orban. Che fossero 100.000, come dicono gli organizzatori, o 5.000, come invece sostiene il governo, grazie all'effetto, all'amplificazione dei media occidentali, europei, la manifestazione del 2 gennaio rappresenta un momento di svolta nella politica ungherese, rappresenta il momento in cui viene sottolineata la crisi tra il governo della destra di Fidesz, il partito appunto del Presidente del Consiglio Orban, l'Europa, il sistema economico e finanziario internazionale rappresentato dal Fondo Monetario Internazionale. Prendo il metro giallo, la linea 1, di cui gli ungheresi vanno molto fieri perché aperto nel 1896, è dunque il più antico metro del mondo. Un paio di fermate, cambio di linea, linea rossa, fermata Astoria. Poco distante dalla fermata il Caffè Central, uno degli storici caffè della capitale. E lì ho appuntamento con Giulia Vasarely, giornalista. Lei ha fatto parte di questo movimento che il 2 gennaio ha manifestato di fronte all'opera. Era una sera molto importante secondo me, perché fino adesso solo qualche migliaia sono scesi in piazza per ribellarsi o contestare contro il regime di Orban, questo regime veramente autoritario. Però secondo me era un po' molto tardi, perché ormai la nuova Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio, avremmo dovuto fare molto più prima questa manifestazione. Però era importante, eravamo molti in piazza, era un'atmosfera molto, molto quieto, molto simpatico. Eccetto un piccolo gruppo di estrema destra, io ero accanto a loro e loro hanno provocato, veramente provocato la gente, erano molto violenti. Però io non so cosa abbiamo raggiunto con questa manifestazione, perché il potere a Orban e il suo partito hanno festeggiato l'entrata in vigore della nuova Costituzione, che è veramente antidemocratica e contro l'indipendenza delle istituzioni nazionali come la Banca Centrale, come la Corte Costituzionale. Loro hanno cambiato le regole delle elezioni. Poi c'è questa legge bavaglio per i media, per la stampa e ancora tante cose. Come è stata raccontata e rappresentata la manifestazione del 2 gennaio all'interno dell'Ungheria? Dato che ormai ce ne sono pochissimi giornali o televisioni o radio indipendenti o di opposizione, le televisioni statali o pubbliche sono in mano di Orban, dunque loro hanno mostrato, queste televisioni, delle strade vuote. Loro manipolano le notizie e anche le immagini giorno per giorno, dunque ormai in Ungheria non si può informarsi correttamente. Qualcuno che non appartenga a un partito, soltanto a un cittadino o una cittadina ungherese, Non ha la possibilità di avere informazioni corrette. Mostra anche ogni minda, sinta c'è che semmi to, a chi chiaga te l'enghetta, mi scioforgo il sio, è la vita di ho. Io mi chiamo Béla Somráky, sono nato a Budapest negli ultimi giorni dell'assedio di Budapest nel 1945, ho vissuto con una certa coscienza gli anni della dittatura comunista, ho capito che il regime era un regime profondamente menzognero, proprio costruito sulla violenza e sulle bugie. Poi ho fatto le scuole, ho fatto l'università, ho studiato italiano, lingua e letteratura italiana e spagnola, ho vissuto a Firenze 6-7 anni, sono rientrato in Ungheria. Nel 77 ho cominciato a lavorare nella radio di servizio pubblico, poi per un certo periodo ho diretto il GR, il primo canale della prima rete, Radio Kossuth, che era la cosa più importante, che è un po' l'emittente più importante. E ultimamente, prima di andare in pensione, che è avvenuto in settembre, 4 mesi fa, per 4-5 anni ho diretto gli studi regionali della radio di servizio pubblico. E intanto parallelamente ho fatto anche l'interprete. Col cambio di regime ho accettato anche di fare l'interprete politico. Prima no, trovavo sempre delle scuse magnifiche, tipo non riesco più a prendere il vestito in cui avevo fatto la maturità, queste mezze battute. Bisognava stare attenti, perché la dittatura, anche quando fa vedere il suo volto umano, non scherza. Col cambio di regime nell'89 ho accettato, e nel 90 ho accompagnato per la prima volta, ho cominciato col primo ministro Antal, Josef Antal, che era il primo ministro liberamente eletto, e poi mi hanno tenuto un po' tutti. Tra l'altro, questo lavoro, fare l'interprete, mi ha concesso, prima del cambio di regime, quando ho fatto semplicemente l'interprete di conferenza, più che altro, cioè l'interprete simultaneo, mi ha permesso una certa indipendenza. Non ho dovuto partecipare alle lotte per la sopravvivenza né nella radio per avere un programma in più, eccetera, e non ho dovuto prendere delle posizioni che magari più tardi uno giudica anche vergognosa e non preferisce dimenticare. Naturalmente ero povero anch'io, però riuscivo a avere quel poco che era necessario per mantenere la famiglia. E l'Europa non ha, secondo me, non ha assolutamente nessun motivo di temere questo tuttora abbastanza giovane primo ministro. Neanche questo ragazzo, quando era ragazzo, temeva la dittatura, tant'è vero che era uno dei pochi che effettivamente ha avuto il coraggio di sfidare la dittatura, di fondare un partito, chiamato dalla polizia, vessato, eccetera eccetera, picchiato anche. Quindi se c'è una persona impegnata assolutamente per la democrazia, per le istituzioni democratiche, credo che lui lo sia senz'altro. C'è da notare magari che è un giovane o era un giovane intellettuale di prima generazione, è di provincia. E questo forse si manifesta nei suoi modi un po', diciamo, non dico poco diplomatici, ma comunque non molto consueti. Lui dice pane al pane, vino al vino, non scherza, non parla molto a lungo, dice le cose come le pensa. Lui ha sfidato di persona il regime e si è esposto, diciamo, si è messo in primo piano assolutamente il 16 giugno dell'89 alla risepoltura, alla celebrazione, diciamo, di risepoltura di Imre Nagy. Lui credo sia convinto del fatto che il passato, mi dispiace usare questa parola anche perché tra i miei amici ci sono moltissimi comunisti e ex comunisti, tra i miei amici italiani. In Italia la parola comunista vuol dire una cosa del tutto diversa da quello che, diciamo, è dalla nostra parte, nell'Europa centro-orientale. Comunque io vedo che lui abbia una profonda convinzione che il cambio di regime effettivamente non è avvenuto come doveva avvenire. Gli Giulia e Bela, due intellettuali dell'Europa centrale, uniti solo quando si tratta di condannare il passato comunista, lontanissimi invece se si parla di valutare la natura del governo guidato da Viktor Orban, il primo ministro classe 1963, che oggi è il fattore più originale e anche discusso del panorama politico ungherese. Patriota liberale o ex democratico in picchiata reazionaria? Di certo enfant prodige della politica di destra in Europa centrale. Premier una prima volta nel 98, ancora 35enne, poi sconfitto, infine plebiscitato nel 2010 dal 52,4% dei voti utili. Noi non crediamo nell'Unione Europea, dichiara appena riceve l'incarico, crediamo invece nell'Ungheria e consideriamo l'Unione da un punto di vista secondo cui, se facciamo bene il nostro lavoro, allora quel qualcosa in cui crediamo, che si chiama Ungheria, avrà il suo tornaconto. Intellettuali lacerati, mentre il paese delle persone comuni fa i conti con una crisi economica gravissima. Budapest è Europa, ma non euro. Per il fiorino ungherese è un declino che sembra inarrestabile. Dal caratteristico mercato coperto di Vacsacsarno, Nicolette, guida turistica, interprete, mi conduce dove gli ungheresi misurano ogni giorno le loro paure. Vacsacsarnok. Sì. Che per tutti è il mercato più frequentato anche dai turisti che arrivano a Budapest. Dai turisti assolutamente sì, però di mercati come questo ce ne sono anche altri a Pest, mercati coperti, non è l'unico, questo è il più grande e il più bello. E non è solo per turisti? No, no, assolutamente no. Cioè a comprare vengono ungheresi come vedi anche adesso. Adesso è pieno di anziani perché la gente in età lavorativa sta al lavoro lavorando. In questo momento. Quindi sono gli anziani che comprano. Però dove vanno gli anziani si capisce che non può essere caro, perché loro le pensioni qui sono, sapete che gli stipendi sono più bassi e le pensioni sono ancora più basse. Diciamo che già un 300 euro. Già con 400 euro ho parlato due settimane fa sull'autobus con un anziano di 82 anni, un uomo, e mi ha detto: perché io non vado a vendere la mia roba al mercato perché ne ho bisogno, perché io ho una pensione buona, io prendo fino a 400 euro. Cos'è Termek? Prodotto? Prodotto ungherese. E le patate qui costano 80 fiorini al chilo, mentre per strada, se quando vengono i contadini a venderli, 10 centesimi al chilo. Mettici il lavoro che ci mettono e tutto quanto. Oppure vedi l'aglio. Adesso noi sanno molti che siamo stati sempre grossi produttori di aglio, di cipolla, c'è un'intera regione che ha sempre vissuto di questa produzione di aglio e cipolla. Adesso noi la maggior parte dell'aglio l'importiamo dalla Cina. Devi stare sempre molto attento. Ovviamente la cipolla, cioè l'aglio cinese costa molto, ma molto di meno. Qui siamo di fronte alle lavatrici, vediamo i modelli, sono esattamente gli stessi che si trovano ovunque, il punto magari che può fare la differenza è il prezzo se lo si compara a quello che è lo stipendio medio. Ne prendiamo una, qui vediamo che vanno dai 110.000 di fatto ai 200.000 fiorini, allora 110.000 fiorini al mese, che stipendio? Per esempio a una persona che lavora in questo negozio. In che ruolo? Un commesso? Sì, un commesso. Mi sa anche un po' di meno, un medio commesso. I giovani che vengono, sono neoassunti, prendono su questo magari un po' di meno. Meno di 110.000 fiorini? Sì, prendono rispetto a questi 110.000 sui 70.000 fiorini, senza fare gli extra. Con gli extra arrivano fino a 140.000, con cui ancora non puoi comprare questo più grande, puoi comprare solo quella più piccola. E quella generazione dei miei genitori da un giorno all'altro ha visto: ah, se faccio il mutuo posso comprare la casa, se faccio il mutuo posso avere la macchina occidentale anche nuova. Poi pensano persone come mio padre che fanno: ah, ma io che ho lavorato per tutta la mia vita, ho avuto sempre due lavori per mantenere la mia famiglia e continuo a vivere in 50 metri quadri, magari adesso mi merito una macchina bella. E se mi compro una BMW, un Audi, una Mercedes e faccio un bel mutuo, l'ipoteca sulla casa? E così è partita la valanga, capito? e l'hanno fatto molti. Poi fa un'altra persona: ma adesso possiamo, sono aperte le frontiere, perché non andiamo a viaggiare all'Occidente o magari oltre l'oceano? Perché non abbiamo i soldi, quello che dice mio padre, i soldi non ci sono ancora. Facciamo un bel mutuo, un credito, chiediamo un prestito e andiamo sempre, sai, compriamoci, andiamo a viaggiare. Facciamo anche qui un prestito. Poi a un certo punto le banche non ti danno più soldi perché ormai l'intero stipendio di mio padre va direttamente alle banche, a due o tre banche diverse. E a un certo punto chiediamo magari un prestito ai figli, ci vergogniamo e ci mettiamo in depressione, iniziamo a prendere i calmanti, ma ormai la valanga è partita e nessuno riesce più a fermarli. E noi questo mutuo come l'abbiamo fatto? In franco svizzero. E perché? Perché quando siamo andati dalla banca, la banca che ha detto o franco svizzero o niente. Tu hai fatto il mutuo quando un franco svizzero corrispondeva a 140-160 fiorini? Oggi siamo a 250 fiorini. Meine Damen und Herren, ist es zu viel von Ihnen verlangt, wenn ich Sie noch einmal bitte, Ihre Plätze einzunehmen? Quando la questione ungherese sbarca al Parlamento di Strasburgo il 18 gennaio, Martin Schulz è a capo dell'Assemblea da una manciata di ore. Spetta dunque a lui introdurre il Presidente della Commissione, Barroso, che spiega come al di là degli elementi tecnici sollevati sulla Costituzione, che grazie alla maggioranza assoluta in Parlamento Orban ha varato con il nuovo anno, l'Europa sia preoccupata per la qualità della democrazia in Ungheria. We want Hungary to go on being a respected member of the European Union. This should not be a debate against Hungary. E conclude Barroso, rassicurante, che questo non sarà un dibattito contro l'Ungheria, ma per l'Ungheria con l'Ungheria. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich hatte zu Beginn dieser Debatte Ihnen mitgeteilt, dass Herr Ministerpräsident Orban mélyen tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy fél évvel a magyar elnökség után ismét itt lehetek önök között. Quando tocca al primo ministro magiaro, la difesa è articolata. I valori di cristianità, nazione, famiglia per noi sono importanti, spiega, e con orgoglio afferma: possiamo essere in minoranza in Europa, ma questi sono comunque valori europei. Ma soprattutto Viktor Orban punta a rassicurare mercati e finanziatori internazionali, quella che appare oggi l'unica vera minaccia al suo governo. E promette dunque di modificare il pacchetto economico e le norme sulla banca centrale. Következnek a Klubrádió hírei. La commissaria europea ai media e alle tecnologie digitali Nelly Kroes, da parte sua, si preoccupa di libertà e pluralismo dei media in Ungheria, dove da inizio 2011 è in vigore una legge molto discussa, una legge di settore che le organizzazioni per la difesa dei giornalisti hanno criticato duramente. A Óbuda, periferia nord della capitale ungherese, proprio accanto al teatro costruito dai romani 20 secoli fa, sulla sponda del Danubio, una zebra mi orienta negli studi di Club Radio, emittente simbolo di una minaccia tangibile per la democrazia ungherese. Ferenc Visek, direttore dell'emittente, mi fa visitare la radio, poi si ricorda di un appuntamento e allora via, mi racconta tutto mentre in auto attraversiamo nuovamente la capitale. Club Radio. Tények, vélemények. We are Tokyo News Radio and sorry, I'm driving during the discuss. And noi siamo una radio di parole, una radio di informazione che dà spazio alle opinioni. Siamo in onda in tutto il paese da 10 anni e siamo una radio di dibattito. Praticamente ogni programma è aperto alle opinioni del pubblico. E siamo aperti a tutte le idee che vengono discusse attraverso le nostre frequenze. Noi di Club Radio siamo nati con la volontà di dare vita a una radio indipendente ed opposizione, una radio commerciale che fa informazione e si sostiene grazie al mercato. But this radio is a typical public radio because that was Ma